Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Primo dopo le ore 22, eccoci tornati ancora in diretta su Spreaker Radio e anche in diretta su www.startrekonline.org. Anzitutto buona Pasqua a tutti, insomma, avete mangiato abbastanza quest'oggi? Domani immagino tutti a casa con il brodino, però insomma oggi abbiamo festeggiato la Pasqua in un modo direi originale. Noi lo stiamo facendo ancora con la trasmissione in diretta, una serata meravigliosa con della musica che è abbastanza inusuale per quanto concerne le radio italiane. Queste canzoni, a parte magari qualche eccezione tipo Radio Rai, difficilmente le ascoltate nei network nazionali e tantomeno nelle radio locali. Forse in passato mi sembrava sì che Radio Popolare Milano avesse trasmesso queste canzoni. Come state leggendo del titolo, puntata dedicata al beat di Cinecittà, come affettuosamente la chiamo io, un genere di musica che in pratica riguarda principalmente le colonne sonore dei film italiani degli anni 60, 70 e 80. Affettuosamente io l'ho definito il beat di Cinecittà. Sono usciti anche dai CD con questo diciamo così, questo slogan, ma in parole povere sarebbe musica lounge, easy listening, bossa nova. E gli interpreti dei miti veramente della musica di questo genere, tipo non so, Morricone, Alessandroni, Piccioni, Armando Trovajoli, eccetera eccetera eccetera. Questa notte purtroppo non possiamo passare tutti questi miti, però oltre alla musica faremo anche una breve monografia della pellicola che appartiene la canzone. In pratica vi faremo sentire una soundtrack e poi commenteremo proprio la pellicola che fa parte questa soundtrack. Sto entrando in un discorso un pochino contorto, scusate ragazzi. Quindi questa sera siete a bordo dell'astronave Enterprise, sempre con Andrea, puntata speciale dedicata al beat di Cinecittà, musica lounge, easy listening e bossa nova. Direi di non perdere tempo e partire immediatamente con la prima canzone che apre ufficialmente Star Trek. Una buona serata a tutti e ancora una volta una Pasqua serena a tutti voi. Star Trek Tonight, Italian is listening music, lounge music. This is the beat of Cinecittà. Good listening. Benvenuti ancora a bordo dell'astronave Enterprise, siete all'ascolto di Star Trek Viaggio nella storia della musica, speciale dedicato al beat di Cinecittà, musica lounge, easy listening e bossa nova. Al microfono sempre il vostro capitano Andrea, rimarremo insieme sino alle 22.30, minuto più minuto meno. E ora parliamo di cinema, perché ascoltiamo delle colonne sonore, però parliamo anche di cinema. Voglio proporvi un film molto bello, sempre di italiano e ovviamente Cattivi pensieri, film del 1976, scritto e diretto e interpretato da Ugo Tognazzi. La trama è la seguente: l'avvocato milanese Mario Marani è costretto a ritornare a casa perché il suo volo è stato cancellato per la nebbia. Rientrato, trova la moglie Francesca e Duish Fenech addormentata e si accorge che nel ripostiglio dei fucili da caccia si nasconde una persona. Quindi è un film diretto da Ugo Tognazzi. Convinto che sia l'amante di Francesca, in un primo momento fa finta di nulla, chiude a chiave il ripostiglio e la mattina seguente parte con la moglie per un lungo giro per l'Italia, con lo scopo appunto di scoprire il suo amante. Poi la pellicola continua con dei colpi di scena. Io però insomma non vi voglio togliere il gusto di vedere questo film, che è una pellicola del 1976 con Ugo Tognazzi e Duish Fenech, Luc Merenda, mitico artista degli anni 70, Piero Mazzarella e altri grandi attori. Quindi ricordate Cattivi pensieri, questo film indimenticabile diretto da Ugo Tognazzi e anche interpretato. Sono una delle cinque pellicole che Tognazzi ha diretto e interpretato. Ora che ne dite, ascoltiamo proprio la colonna sonora di Cattivi pensieri, colonna sonora molto bella, affidata al maestro Armando Trovajoli. note sublimi del maestro Armando Trovajoli. Questa era la colonna sonora del film Cattivi Pensieri con Edwige Fenech e Ugo Tognazzi. Noi ci fermiamo pochi istanti perché devo mandare il promo di Star Trek, poi ci ritroveremo con un bel brano del maestro Morricone. State lì, ora mandiamo un promo e poi torniamo in onda con Star Trek. Sei un editore di radio locale, hai ascoltato Star Trek, hai detto, sì, il programma non è male, diciamo, non fa cagare, però quasi, è sufficiente, diciamo così, hai un buco da inserire nel tuo palinsesto, non so, magari dalle 3 alle 4 del mattino, allora contattami tranquillamente, visita il mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.startrekonline.org, ecco, vai a visitarlo, contattami, e niente, sono pronto a volare da te col teletrasporto, direttamente nella tua radio, oppure in versione podcast, qua su Spreaker, lo fai il download e poi lo mandi in onda, non so, dalle 4 alle 5 del mattino. Contattami. E ovviamente ci saranno anche loro. Io amo Molly Pucci, io amo Cippa Lippa. Garzone del lattaio che passa per la strada. Ciao, bella gioia! Sei una namadella. www.andreamangiarotti.com oppure www.startrekonline, tutto attaccato, .org. Vi aspetto. Per me è una cagata pazzesca! Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! C'è stato un piccolo problema tecnico, però siamo tornati in onda dopo lo spot dedicato alla trasmissione Star Trek, quindi se siete editori di radio locale che trasmette sì in FM ma anche in AM, vi piace la trasmissione, vi piace la voce del sottoscritto, vi piacciono le canzoni trasmesse, contattatemi per avere maggiori informazioni, sono disposto insomma a condurre Star Trek nella vostra radio. Il massimo sarebbe insomma in qualche radio americana, perché lì è pieno di radio locali che trasmettono sia in FM che anche in AM. Sarebbe, diciamo così, un sogno. Potete anche fare il download, ovviamente l'ho reso libero per tutti, e lo potete trasmettere nella vostra radio. Proseguiamo, state ascoltando sempre lo speciale dedicato alla musica lounge e easy listening. Ora parliamo invece di un'altra pellicola molto bella, Mussolini Ultimo Atto. Praticamente è un film di Carlo Lizzani del 1974. La trama è la seguente: in una Repubblica di Salò ormai in disfacimento vengono rappresentati i pensieri, gli stati d'animo del duce in un viaggio verso la morte. Mussolini, che si trova a Milano sotto protezione dei tedeschi, rifiuta la resa ai partigiani e al Comitato di Liberazione Alta Italia, che gli viene suggerita dal cardinale Schuster, e decide di fuggire verso la Svizzera, contando sull'aiuto anglo-americano che si sono già penetrati nel nord Italia. L'amante Clarette Petacci decide di seguirlo, così come i gerarchi che intendono arrendersi agli alleati, onde evitare la cattura e la fucilazione dei partigiani. Egli viaggia scortato da una colonna composta da soldati tedeschi delle SS, ma durante il tragitto questa viene fermata da un gruppo di partigiani. Il film è questo, è praticamente l'ultimo atto di Mussolini, ormai purtroppo inerme e stanco. Ovviamente non vi leggo tutta la trama, non vi dico come va a finire, perché vi toglierei il gusto di vedere questa pellicola. Film molto bello, insomma, dove viene per certi versi ricordato un Mussolini molto triste, invecchiato e con tanti ricordi. Ora noi ascoltiamo proprio la colonna sonora di questa pellicola, affidata alle mani esperte del maestro Mario Morricone. Mussolini, ultimo atto. Enrico Morricone, scusate. Ennio Morricone. Giustamente qualcuno questa sera potrebbe dire, come si suol dire, insomma, cambia spacciatore. Beh, indubbiamente, perché prima l'ho chiamato Mario, poi come l'ho chiamato Enrico, cioè, vabbè, dai ragazzi, scusate, sono, diciamo così, situazioni pasquali, come si suol dire, situazioni pasquali. Ennio Morricone, con la colonna sonora per l'appunto di Mussolini, Ultimo Atto. Siamo purtroppo quasi giunti al termine di Star Trek, Viaggio nella storia della musica, dedicata al sound, easy listening, lounge e bossa nova. L'ultima canzone in scaletta è molto bella, è un brano di Ornella Vanoni. Il titolo è Quei giorni insieme a te. Parliamo proprio di questo disco, che viene pubblicato nel 1974, è un album della canzone appunto di Ornella Vanoni. L'album viene pubblicato dalla casa discografica che la cantante aveva lasciato da poco per fondare una sua etichetta. Il brano che dà il titolo all'album fa parte anche della colonna sonora del film Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci. Non si sevizia un paperino, titolo alternativo italiano, appunto, è un film del 1972 diretto da Lucio Fulci, è considerato il capolavoro del regista, è una delle opere fondamentali del giallo italiano, nonché uno dei film più inquietanti e morbosi girati dal regista. Era anche il suo film preferito, pensate un po', l'ambientazione in un paese retrogrado del sud Italia era inedita sin da allora nel thriller italiano. Il soggetto del film è ispirato a un fatto realmente avvenuto a Bitonto nel 1971, dove ci fu una serie di omicidi con bambini come vittime. Quindi ora noi ascoltiamo la colonna sonora appunto affidata a Ornella Vanoni e poi ci ritroveremo in diretta per i saluti finali di Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Questa è la colonna sonora del film Non si sevizia un paperino, Ornella Vanoni. Inutile. era Orian Vanoni. Dai, sto scherzando, ragazzi, dai. Dopo la mia precedente gaffa, Ornella Vanoni con questa canzone dal titolo Quei giorni insieme a te, con una sonora anche del film Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci, film del 1972. Siamo giunti al termine di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Prima di congedarci vi mando i miei saluti, ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno ascoltato in versione live, proprio in diretta. Vi ricordo il mio account Twitter, @TheMangia, se volete lasciare un commento, un saluto o semplicemente un mi piace potete farlo. Poi vi ricordo i miei siti internet per interagire con il sottoscritto: www.andreamangiarotti.com, www.startrekonline.org. Altro, potrei anche ricordarvi insomma che questa trasmissione va in onda ogni tanto, quando mi va, entro in diretta su Spreaker Radio e di solito il programma ha delle tematiche varie. Principalmente parliamo di musica, ma anche di cinema, di spettacolo, di arte, insomma un po' di tutto. Questa sera abbiamo voluto dedicare uno speciale dedicato alla musica appunto da tema, i mitici film girati a Cinecittà. Abbiamo ascoltato dei mostri sacri per l'appunto di questo genere di musica, però prossimamente faremo altri speciali sempre di altri generi. Grazie ancora a tutti. Ah già, dimenticavo, saluto anche gli amici e le amiche che ci hanno ascoltato invece in versione podcast, anzi che ci ascolteranno in versione podcast magari nell'arco della giornata e perché no magari anche nell'arco della nottata. Grazie ancora a tutti, noi ci ritroviamo nei prossimi giorni sempre qua belli pimpanti e belli carichi con Star Trek Viaggio nella storia della musica. Mi congedo augurandovi ancora a tutti una buona e serena Santa Pasqua. Ci sentiamo presto, un abbraccio dal vostro amico Andrea. Ciao ciao, alla prossima, come si dice di solito. Alla prossima ed ora sigla. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre.